L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, che è anche la prima puntata del 2014. Quindi grazie a tutti per averci seguito l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti. Auguri per il nuovo anno e auguriamoci un po' tutti che il 2014 ci porti più rispetto per l'ambiente e più sostenibilità. Di cosa parliamo oggi? Siamo andati a vedere quali erano le puntate più cliccate, quindi quelle più ritrasmesse via Facebook, via Twitter o comunque suggerite agli amici del 2013, e siamo andati un po' a vedere quali sono gli aggiornamenti in questi due campi, che sono fortunatamente campi molto diversi, quindi ci permettono di parlare di argomenti ben diversi. In questa, diciamo, classifica, la prima posizione ve la sveleremo soltanto dopo la viabilità, quindi nella seconda parte della trasmissione. In questa prima parte vediamo qual è stata la seconda classificata, vedremo tutti gli aggiornamenti su questo argomento. Il tema è quello dell'acqua, la puntata più cliccata è stata quella dedicata al volume L'acqua che mangiamo, edito da Edizioni Ambiente, un volume curato da Marta Antonelli e Francesca Greco. Fu nostra ospite allora Marta Antonelli, che è una ricercatrice del King's College di Londra e della Università UAV di Venezia, ed è nostra ospite oggi ancora Marta Antonelli. Il tema acqua e cibo è un tema che ci è molto caro e tra l'altro deve essere caro a tutti gli italiani in vista dell'Expo del 2015, no? Certamente il tema del nesso tra acqua e cibo, e quindi il legame tra sicurezza idrica e alimentare, è centrale rispetto alla prospettiva di Expo 2015, perché la disponibilità e accesso all'acqua dolce è alla base di un'alimentazione sana, sicura e sufficiente per il pianeta, che è proprio il tema principale dell'esposizione universale. E la sicurezza idrica e alimentare è anche al centro dei focus specifici di Expo, cioè quelli del miglioramento che vogliono promuovere il miglioramento degli stili di vita e un'educazione alimentare, quindi soprattutto per le generazioni, per le nuove generazioni, l'innovazione e il miglioramento dell'efficienza della filiera alimentare, quindi la lotta allo spreco. Ricordiamo ad esempio che il 30% del cibo, e quindi dell'acqua contenuta nel cibo che viene prodotto a livello mondiale, viene sprecato annualmente, e nonché anche la promozione al consumo, ad un consumo più responsabile, e anche alla conoscenza della stagionalità e specificità di ciò che mangiamo, che è direttamente legato al consumo di acqua richiesto appunto dalle colture, dai cibi. Mi pare che in questo ultimo anno in particolare ci sia anche da parte del pubblico molta più attenzione e curiosità su questi temi, perché poi la curiosità qui è fondamentale. Se uno non va a cercare certi dati non li scoverà mai, non verranno neanche pubblicati, se non c'è interesse, insomma, non si prosegue in questo campo. Assolutamente, dall'anno scorso quello a cui abbiamo assistito è una crescente consapevolezza e interesse sul tema da parte non solo della comunità scientifica italiana in questo caso, perché ricordo che gli studi sull'acqua virtuale e impronta idrica invece nel mondo sono iniziati all'inizio degli anni intorno al 2000-2001, ma anche un crescente interesse rispetto ai media e al mondo delle aziende soprattutto. Sicuramente un riflesso di questa crescente consapevolezza è la decisione del WWF Italia di elaborare il primo rapporto ufficiale sull'impronta idrica dell'Italia, che uscirà in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, quindi il 22 marzo prossimo. Quindi anche l'Italia, diciamo, si allinea finalmente, con una decina d'anni di ritardo però purtroppo, ma comunque meglio tardi che mai, insomma. Assolutamente, soprattutto dal momento che l'impronta idrica giornaliera pro capite dell'italiano medio, diciamo, non ci fa onore. Siamo a 6.300 litri pro capite al giorno in media per una dieta non vegetariana, contro i 3.600 invece di media globale, per cui assolutamente è ora che l'Italia rifletta, si renda consapevole, rifletta. Quindi questo è dovuto principalmente al tipo di dieta? Questo è dovuto principalmente principalmente al tipo di dieta, circa il 47% dell'impronta idrica italiana, secondo gli studi del Water Footprint Network, sono dovuti al consumo di prodotti di origine animale, e circa il 60% di quest'acqua, quindi virtuale, viene importata da paesi stranieri, principalmente Francia, Spagna, Brasile e Germania. E nella classifica, diciamo così, europea, dove ci collochiamo? Perché comunque le diete, diciamo, se ci paragoniamo al mondo, ovviamente ci sono situazioni molto diverse rispetto alla nostra. Pensiamo a situazioni più simili invece? Rispetto alla media europea ci troviamo al primo posto, rispetto alla media mondiale no, siamo superati dagli Stati Uniti. In ogni caso comunque non brilliamo, anzi al contrario. No. Quindi il tema dell'acqua abbiamo detto da un punto di vista alimentare, ma appunto l'acqua non è soltanto cibo, è anche energia. So che anche su questo punto ci sono studi in preparazione che arriveranno proprio nel 2014, no? Sì, assolutamente. E il tema che lei ha appena menzionato, cioè quello del nesso tra l'acqua, cibo ed energia, sarà al centro, sarà il tema principale del nuovo rapporto ad opera dell'UNESCO, che uscirà appunto nel 2014, tra qualche mese. E perché? Perché tutte le fonti di energia ovviamente richiedono acqua nei loro processi produttivi, e questo fa crescere la competizione e crea dei trade-off rispetto alla produzione invece di alimenti. Quindi la sfida qual è? La sfida è quella di un mondo che continua a crescere rispetto alla popolazione, quindi una domanda di cibo che ci si aspetta arriverà a raddoppiarsi entro il 2050, e con un conseguente aumento della domanda di energia, domanda e consumo di energia, un 50% in più nel 2035 rispetto ai livelli attuali. Quindi queste sfide cosa impongono? Ci impongono un'integrazione delle complesse interconnessioni tra questi settori, quindi l'elaborazione di strategie di risposta adeguate. Ovviamente questo non è privo di criticità. Diceva rapporto dell'UNESCO in preparazione, e quando i termini ha? Che termini ha? I termini che ha al momento è in embargo il rapporto dell'UNESCO. E uscirà nella primavera del 2015. Nella primavera 2015. Quindi diciamo che in linea di massima ci possiamo dare appuntamento alla primavera del 2015 per commentarlo, insomma, ecco, tarda primavera, il tempo di studiarlo e poi commentarlo. Esatto. Grazie molte a Marta Antonelli, ricordo ricercatrice del King's College di Londra e della Università UAV di Venezia. Buon anno, quindi buon lavoro. Grazie mille, buon anno a voi. Allora siamo pronti, come dicevamo, oggi vediamo che novità ci sono nel campo dei due temi più cliccati, quindi forse quelli che sono stati giudicati più interessanti da voi ascoltatori e frequentatori del nostro sito internet radio24.it. Nella prima parte, qualche minuto fa, quindi abbiamo affrontato il tema dell'acqua e del cibo, ora veniamo al tema numero uno, quello che è stato più ritrasmesso in assoluto nel 2013. Come dicevamo, parliamo di raccolta differenziata incentivante, raccolta differenziata non convenzionale. Cosa vuol dire tutto questo? Che invece di consegnare carta, vetro, plastica, alluminio, eccetera, eccetera, agli addetti dell'azienda di raccolta, il cittadino può consegnarli a negozi che aderiscono al progetto Fare Raccolta, negozi che danno disponibilità ad ospitare delle macchinette che sono compattatrici di rifiuti. Sono macchine prodotte da Eurven, che in cambio danno un buono sconto da utilizzare presso il negozio che ospita quella stessa macchina. Quindi è una filiera virtuosa di soddisfazione per tutti, anche ovviamente per il produttore di queste macchine compattatrici, che è Eurven, come dicevamo, che è il motore Eurven del progetto Fare Raccolta di cui parlammo in quella puntata dello scorso anno. Abbiamo richiamato Carlo Alberto Baesso, che è General Manager di Eurven, che ha risposto alla nostra chiamata con il consueto entusiasmo, ci ha riferito le ultime novità, compresa una definizione interessante, particolare, della sua azienda. Allora, ci definiamo come azienda meccatronica, cioè unisce la meccanica, l'elettronica e l'informatica. Si dice così delle aziende che fanno innovazione, hanno dovuto sposare varie tipologie, cioè uno non può dire faccio solo meccanica e uno fa solo elettronica. Se si unisce la forza e si crea questa azienda meccatronica, che fa meccanica, elettronica ed informatica, l'azienda ha il successo in mano al business. Se no devono sempre affiancarmi ad altri partner sperando che quello che fa la meccanica sia bravo come quello che fa l'elettronica, che sia bravo come quello che fa l'informatica. Quindi voi riunite tutto presso di voi, cercando di fare tutto voi, lo fate in Italia? Tutto in Italia, tutto made in Italy con prodotti di altissima qualità. In realtà i prodotti che realizziamo sono fatti, la maggior parte del prodotto è fatto con materiali che sono riciclati. Quindi anche questo è un vantaggio nel vantaggio. Siamo stati la prima azienda che ha costruito una macchina per il riciclo delle bottiglie di plastica sempre incentivante, fatto con le bottiglie di plastica riciclate. Allora, andiamo all'incentivante, che poi dopo è stato, immagino, la cosa che è piaciuta di più di quella puntata per la quale ci stiamo risentendo, no? Il fatto che sia un meccanismo incentivante. Voi su questo avete puntato praticamente fin dall'inizio. Come mai? Facciamo questi sistemi che fanno loro il lavoro di raccogliere il rifiuto, separarlo, dividerlo, lo fa la macchina e ridurlo di volume, ma da un coupon, un buono, un incentivo, diciamo dalla classica caramella, se fai questo gesto ti do una caramella, ed è l'incentivo. E questo incentivo, per quanto piccolo, piace evidentemente, cioè non è che qui stiamo parlando di, appunto, stiamo parlando di 10 centesimi per uno sconto in un determinato negozio che magari aderisce all'iniziativa. Può essere anche 50 euro di sconto, dipende dalla tipologia del commerciante o dell'iniziativa che è legata alla macchina. Le faccio un esempio: se un concessionario di automobili dice, se venite a comprare l'automobile da me, non è che dice ti faccio 10 centesimi di sconto ogni bottiglia, dirà magari ti faccio 200 euro di sconto sull'automobile. Ok, quindi la seconda parte, diciamo, possiamo dire anche la flessibilità del sistema, cioè si adatta sia al concessionario di auto sia a chi vende il salame, ecco, perché ciascuno ha il suo obiettivo, il suo target, le sue possibilità. Esatto. Ed è lo stesso che partecipa a questa iniziativa che dà lui la sua offerta. Io non posso dire a un negoziante devi dare 100 euro di sconto sulle scarpe o 1000 euro di sconto su un'automobile, sarà lui che decide la promozione che secondo lui è migliore. Logicamente più alta è l'offerta, diciamo, più interessante, più clienti avrà. Senta, quando ci sentimmo l'iniziativa era in poche città ancora, adesso a che punto siamo come diffusione? Allora, intanto siamo diventati la prima azienda in Italia come installazione di macchine, soprattutto nei centri commerciali o supermercati. Cioè, siamo in assoluto leader su questo settore, sia di costruzione che per installazione. Siamo l'unica azienda italiana che costruisce queste macchine su misura, cioè io non vendo un prodotto e dico a un cliente ti do questo prodotto, io dico al cliente qual è la tua esigenza, in base alla tua esigenza, alla tua richiesta, ti creiamo la macchina su misura per il tuo utilizzo. Poi è sempre legata all'incentivo, però ad esempio ci hanno chiesto di costruire la macchina per la raccolta dei RAE, la raccolta dei cellulari usati, delle lampadine usate, cioè ci hanno chiesto delle batterie usate, ci hanno chiesto di costruire macchine che non esistono. Noi siamo l'azienda l'unica al mondo, ma veramente non sto scherzando, l'unica al mondo che costruisce macchine per il raccolta incentivante dei rifiuti su misura. Tutto questo per ora voi lo fate lavorando con privati, non con le municipalizzate che raccolgono i rifiuti? No, in realtà lavoriamo anche con le municipalizzate, però il fatto è questo, le municipalizzate lo vedono un po' come un sistema che a loro riduce molto i costi e anche i trasporti, ma loro si definiscono aziende di logistica, cioè più movimento fanno, più camion hanno, più trasporti fanno, più loro fatturano e incassano, meno ne fanno, non sarebbe molto un loro obiettivo quello di ridurre i loro fatturati. Quindi perché le vostre macchine, ricordiamo, compattano, quindi riducono il numero di viaggi che bisogna fare. Quindi in realtà loro non è che lo vedono molto come un'innovazione nel mondo dei rifiuti, loro dicono ma noi più rifiuti ci sono, più fatturiamo, più lavoriamo, più assumiamo personale, se non ci fosse il problema dei rifiuti noi non esisteremmo, quindi nella loro testa non la vedono molto come una cosa interessante, anche se la stanno adottando. Infatti in che cosa trovate collaborazione? Forma di comunicazione, forma di dire noi stiamo facendo qualcosa nella raccolta, stiamo incentivando, stiamo dando dei buoni sconto ai cittadini, la vedono un po' così, mentre i comuni purtroppo abbiamo richieste da tutta Italia, ma mi dicono non abbiamo soldi, quindi dicono se vi arrangiate voi a mettere giù le macchine, a raccogliere i rifiuti, a riciclarli e a dare i buoni, gli incentivi, coupon, Noi vi diamo l'autorizzazione, diciamo, di poter fare questa cosa, ma noi rispondiamo ai comuni, noi siamo un'azienda che costruisce. È più magari il fare raccolta del caso, oppure è nato un franchise che si chiama Top Recycling che fanno questi progetti legati alle nostre macchine. Ma noi in realtà veramente abbiamo richiesta da tutti i comuni, ma noi diciamo siamo un'azienda che costruisce più che fare il progetto, costruiamo il prodotto. Vi diamo dei suggerimenti su come deve essere il progetto, perché sappiamo le case story di successo, ma siamo più che altro costruttori. Senta, no, mi ricordo, infatti lei diceva, mi disse, io li sfido, diciamo così, gli amministratori locali, perché io se mi metto lì con le mie macchine vi dimostro che guadagno anche, non solo raccolgo. Diciamo nei paesi più virtuosi, sia europei che mondiali, più virtuosi, dove hanno capito che il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa, per legge hanno normato questa iniziativa, cioè il sistema di raccolta incentivante l'ha normato, hanno messo la cauzione sugli imballi o sui vuoti o sui prodotti, quindi automaticamente è come il carrello della spesa, non è che io ti domando una tassa per rimetterlo a posto, io ti dico metti dentro una cauzione dei soldi, quando lo riporti ti restituisco la gettone o l'euro che sarebbe la cauzione, quindi l'hanno già fatto nei paesi virtuosi sui rifiuti dicendo il cellulare, la bottiglia, la lattina, paghi una cauzione quando la compri, se la restituisci ti restituisco la cauzione, se no non importa, i soldi che mi hai dato come cauzione saranno spesi per riciclare questo prodotto, ma è normato dalla legge, cioè c'è una legge che stabilisce, mentre in Italia non c'è la legge, ce lo facciamo noi. Nella testa del cittadino succede questo, se vedono le nostre macchine installate, loro dicono nella loro testa i cittadini, ma veramente mi pagate se riporto i rifiuti? Punto, finito. Questa è la scintilla, la molla che fa scattare l'azione del cittadino. Davvero mi paghi per una cosa che fino a ieri era un rifiuto? Sì. Allora ve lo porto. E mi diceva, a parte fare raccolta, prima mi diceva di Top Recycling, che cos'è? Guarda su internet, è nato un franchise interessatissimo che si chiama Top Recycling. Loro hanno messo in piedi un'iniziativa che è simile a quella di fare raccolta, ma in realtà loro si occupano del vero e proprio riciclo dei rifiuti, mentre fare raccolta si occupa principalmente di marketing e basta, cioè ti do l'incentivo e poi rifiuti comunque vanno alla municipalizzata o al comune. Questo franchising dice no, io non solo mi occupo del raccolta e del rifiuto, ma anche del marketing, cioè del buono, e loro vanno nei comuni a proporre l'iniziativa o dove serve, cioè noi abbiamo fatto con loro una specie di esclusiva su questo progetto, perché è stato dall'Asso Franchising, Associazione Italiana Franchising, è stato definito un vero e proprio franchising autorizzato da loro. Quando hanno fatto la fiera del franchising di Milano, sono stati lo stand più assalito di tutto, hanno bloccato la fiera del franchising perché non si poteva più camminare, perché erano intasati dal loro stand, dal loro... E quindi loro fanno quella parte che mancava a fare raccolta, in sostanza. Esatto, diciamo fanno lo stand, perché sono veri e propri riciclatori all'interno di questo franchise, sono i titolari sono dei riciclatori da anni che fanno il lavoro di riciclo rifiuti, quindi hanno detto con i sistemi di Euro incentivanti noi aumenteremo moltissimo il lavoro di riciclaggio dei prodotti facilmente riciclabili, quelli che si riciclano subito, ma soprattutto se ci sono delle microimprese che in tutta Italia si occupano poi di gestire queste macchine e di raccogliere questi rifiuti e destinarli al riciclo, abbiamo fatto veramente il successo, perché quello che manca è unire la richiesta di mercato di lavoro e unire la raccolta dei rifiuti attraverso appunto i sistemi che io costruisco che incentivano questa raccolta. Quindi insomma, concludendo, diciamo che questo è un settore in cui lavorare si può, anzi si deve, perché è importante per la nostra... fare, che noi abbiamo richieste veramente quotidiane di persone che vogliono fare questo lavoro, vogliono iniziare l'attività. Purtroppo noi non stiamo seguendo la direttiva della Comunità Europea sul riciclo dei rifiuti. Ogni anno l'Italia è multata dalla Comunità Europea perché non segue le direttive sulla raccolta dei rifiuti, come si fa, come si deve fare, e anche il sistema incentivante, cioè non lo seguono, preferiscono pagare multe e dire che le persone non fanno la raccolta differenziata. A loro va bene così. Dopo non si può fermare questa trasformazione, questo cambiamento, si può solo rallentare. Ma le persone in Italia non mi sembrano così distratte, no? Lo dimostra il fatto appunto che abbiano successo iniziative come allora, fare raccolta. Diciamo questo, La realtà è che comunque nella testa delle persone il rifiuto è visto ancora come una cosa che fa un po' schifo, che puzza, che è meglio nasconderla, che se ne occupi un altro, non voglio farlo io. Ma è un po' la mancanza di conoscenza e di competenza in questo settore, perché se le persone gli cominciassimo a dire non chiamarlo più rifiuto, trasformiamola in risorsa, quando uno dice ma stai gettando una risorsa? Sì, non si chiama più rifiuto, si chiama risorsa. Allora uno ci pensa, dice guarda, piuttosto lo inserisco in quel sistema lì che lo riduce di volume, lo separa, mi dà anche un buono spesa. Bene, vedi, proprio è, ripeto, la mancanza di conoscenza e competenza su un settore che è un po' visto come un settore sporco di cose che... questa è la vera difficoltà, però le nuove generazioni, i giovani eccetera, che sanno anche come funziona nel mondo, lo stanno capendo benissimo, non occorre spiegarle queste cose. Bene, a questo punto ci fermiamo qui. Vi ricordo ancora una volta che c'è il nostro sito internet per riascoltare le puntate o anche per segnalare il vostro gradimento su Facebook o su Twitter. Per scriverci comunque vi ricordo che c'è l'indirizzo l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora e ovviamente molti auguri di buon 2014.